tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato. Oh, allora abbiamo l'inizio di un percorso in queste prossime due puntate, che è un progetto molto interessante che Dedicato sta facendo nelle scuole, perché da quest'anno abbiamo riiniziato i nostri laboratori e siamo direttamente dentro le scuole con quindi bambini, docenti e ragazzi, perché abbiamo sia le scuole primarie sia le scuole secondarie di primo grado, quindi elementari e medie, detta più semplice. Questo laboratorio in realtà parte perché l'associazione Totem Lab APS ci chiede una collaborazione sulla creazione di podcast con i ragazzi più grandi e su un laboratorio di teatro e musica con i più piccolini, che verranno poi creati dei contenuti e registrati dei materiali da mandare nella nostra radio. Il progetto è un progetto che fa interagire le due classi che partecipano. Una classe della secondaria interagisce con una classe della primaria e così andare. Sono tante classi, quindi sto cercando di affiancarle nel migliore dei modi, proprio perché si meritano i ragazzi e i bambini di avere questo rapporto, nonostante non sia diretto, perché loro non si incontrano, però vengono raccontati da me, che sono l'operatrice del progetto, e vengono poi in conclusione messi assieme, lavorati, diciamo, per essere messi in radio. Quindi ci sono dei montaggi, quindi ovviamente non si va in diretta perché diventa anche molto complicato coi piccoli, ma devo dire che sono venuti fuori dei risultati molto simpatici. Ascolteremo le prove, ascolteremo dei momenti buffi, ascolteremo tante cose, nel senso che con i più piccoli abbiamo creato delle canzoni e delle storie. I più grandi commentano queste storie, ne parlano insieme a noi e vanno a creare anche loro altri momenti dove invece commentano canzoni, generi musicali, dove parlano di tematiche importanti. Insomma, è un laboratorio ampio e vario, come piace a noi, ed è interamente fatto dai ragazzi delle scuole Federzoni e dalle scuole Testoni Fioravanti, che fanno parte tutte e due dell'Istituto Comprensivo 5 di Bologna. Quindi intanto ringraziamo tutti i ragazzi e i bambini che hanno partecipato, le loro insegnanti, perché veramente, oltre alla grande disponibilità che hanno mostrato, sono persone preparatissime con cui si lavora veramente molto bene. Ringraziamo la dirigenza, la segreteria e tutte le persone che lavorano all'interno dell'Istituto Comprensivo 5. Andiamo ad ascoltare un primo contributo di una classe che ha iniziato, diciamo, a fare delle prove per le canzoni. Quindi partiamo dalle prove, insomma, qui siamo alla scuola primaria Federzoni. Almeno Ok, abbiamo ascoltato la quinta F e la quinta G delle Federzoni in un inizio, nel primo step appunto, del canto, quindi del cantare insieme. Abbiamo lavorato un po' sulla tecnica vocale, su come si parla in un microfono, su come si canta in un microfono, perché ci sono delle differenze grandi. Gli abbiamo raccontato anche un po' come la musica può aiutare melodicamente nel canto, quindi una musica molto ritmata si canta in un modo, quindi il rap o la trap che piace tanto oggi hanno delle tecniche precise, la trap no, non ha tecniche, però vabbè, questo rimane tra noi, e invece diciamo il rap ha una tecnica precisa, invece la musica più rock o più melodica o ha altri modi di emissione del suono. Abbiamo raccontato tante cose in questo laboratorio e i bimbi hanno capito come utilizzare il loro corpo in relazione al suono, quindi bravissimi come prima prova, direi che insomma ce la possiamo fare, ma avrete modo di ascoltarli, ovviamente migliorati durante il percorso. Spazio-tempo, l'ultima canzone che ha cantato in prova la quinta F, sarà poi la canzone finale che tutte e tre le quinte delle Federzoni canteranno assieme con due chitarristi d'eccezione, e anche queste sono le particolarità del nostro laboratorio, perché si vanno a valorizzare quelle cose che i bambini o i ragazzi hanno già tra le mani, tipo chi suona la chitarra, chi è più sulle percussioni, chi fa lezioni di canto, e si aiutano gli altri e si vanno a mettere in campo queste piccole qualità che si hanno per la resa del gruppo classe, quindi è veramente tanto tanto interessante quello che è successo. Andiamo a parlare velocemente però dell'associazione Totem Lab APS. Perché? Perché Totem Lab promuove questo laboratorio ed è un'associazione che è giovanissima, si costituisce nel 2020 e nasce un po' dall'incontro tra professionisti di differenti settori, quindi insomma si va a lavorare tutti insieme a un obiettivo condiviso che è l'educazione e la cultura alla pace. In particolare l'associazione promuove pratiche per il contrasto a ogni forma di intolleranza e discriminazione, e lo si fa attraverso gli strumenti della teoria e pratica della non violenza. Quindi Totem Lab vede il confluire di esperienze progettuali e operative differenti, siamo in tanti e siamo ognuno con le sue qualità e le sue caratteristiche. L'associazione si avvale principalmente di metodologie esperienziali e partecipate, e poi insomma si vanno a creare spazi di condivisione e esplorazione collettiva fondati sui cardini di privacy, libertà e sicurezza. L'associazione Totem Lab si pone tra i suoi obiettivi la strutturazione di progetti intergenerazionali volti a migliorare l'autoconsapevolezza. Quindi grazie a Totem Lab, grazie anche per averci chiamati a tenere questi laboratori all'IC5 di Bologna, perché come dicevo è stata un'esperienza meravigliosa. Andiamo avanti a sentire questi fanciulli delle elementari, quindi delle Federzoni, che cantano ancora in prova, diciamo, ecco sì, diciamo ancora in prova e in momenti di ricreazione, perché il bello è stato anche trovarsi in una classe con due bimbi che suonano la chitarra e durante la ricreazione ci si trovava a cantare tutti insieme. Mi hanno fatto una dedica meravigliosa che ora vi faccio ascoltare. Oh, It's ever, it's ever, it's ever to like it. Gulps in the very super club. You can bury these moments, I can bury to like it. Oh, gumbago, bago, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gonna do is just meet me at the appetite, appetite, appetite, appetite, appetite, appetite. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gonna do is just meet me at the appetite, appetite, appetite, appetite, appetite, appetite. Just meet me at the appetite, appetite, appetite, appetite, appetite. Yeah, grandi ragazzi! Allora, questa era la quinta E delle Federzoni, che durante momenti di pausa alcuni mi hanno dedicato questo brano con chitarra e voci. Grazie ragazzi, che gioia! E invece la nostra solista ci ha fatto ascoltare una canzone che lei conosceva bene. Le ho detto: mi raccomando, che ti piaccia e che tu conosca bene. Ecco, siamo arrivati ovviamente a quella è quella che va in voga oggi tra i giovani e piace a tutti. Alla fine ci sta, non è trap, quindi ci piace, dai. E allora, grazie bimbi. Io direi a questo punto vi presento brevemente i laboratori che abbiamo fatto, perché sono on stage vs on air. Cioè, on air andiamo direttamente sulla creazione di podcast, realizzando i contenuti, quindi la cosa più importante, oltre a saper utilizzare tutta la tecnologia e tutti i mezzi che servono per fare la radio. E quindi noi glieli raccontiamo, ma non tutti sono utilizzati dai ragazzi durante il laboratorio, perché noi siamo in classe e non in radio, quindi mancano dei pezzi fondamentali, ma loro creano i contenuti. Quindi la cosa più importante è fare un gruppo di lavoro che gestisca un'informazione e che capiscano come la devono dare questa informazione. Quindi, dedicato on air, il laboratorio parla di tutto questo. E poi, come dicevamo prima, affrontiamo anche tematiche importanti come la tecnica vocale, la produzione del suono, come il suono può cambiare, variare, quindi la nostra voce può cambiare in base a come la utilizziamo, alla respirazione, a tutta una serie di esercizi che ai ragazzi fanno sicuramente bene. Quello non può essere che una crescita personale. Poi invece la parte on stage, che è stata fatta dai bimbi delle quinte elementari delle Federzoni, quindi poco più piccoli di un paio d'anni, vede tutta quella parte di palcoscenico, quindi dell'on stage, del recito, canto, mi muovo, imparo insieme al gruppo classe a creare qualcosa. E adesso iniziamo ad ascoltare la parte on stage, non delle prove delle canzoni, ma delle storie che hanno inventato. Abbiamo inventato queste storie insieme, suddivisi in gruppi, ogni classe erano tre gruppi che hanno scritto storie diverse su una tematica comune per ogni classe. Quindi ora iniziamo a presentarvele, perché questa è farina del loro sacco al 100%, ovviamente aiutati da me e dalle docenti, che abbiamo incrementato le idee, diciamo, e lo sviluppo di queste storie, ma loro insieme hanno tirato fuori delle idee molto simpatiche e interessanti. Quindi andiamo a ascoltare la prima di queste storie. Ora siamo con la quinta E delle scuole primarie Federzoni, che ha fatto con noi questo laboratorio di creazione storie. Hanno inventato dei momenti bellissimi con una tematica. Bimbi, qual è la tematica? L'amicizia! Ah, l'amicizia, fantastico. Adesso noi andiamo ad ascoltare le tre storie che ha creato la quinta E. Quindi, con calma, ci alziamo e andiamo a registrare la storia del primo gruppo. Il titolo è Il mistero del Monte Fuji. C'era una volta? Ma dai, c'era una volta, si trova tutte le storie in una scatola, metti qualcos'altro. Non ti scaldare. Tanti anni fa c'era un ragazzo di nome Carmine che passeggiava di notte felice. Ad un certo punto a terra nota un foglietto caduto dal cielo con su scritto: verso il Monte Fuji e salvem. Ma questo foglietto è pieno di errori grammaticali. Allora, Carmine, chiariamo subito una cosa, che noi siamo qui per salvare una persona e non per correggere gli errori grammaticali, eh? Allora andrò sul Monte Fuji con Erika e Sara. Allora, i tuoi amici chiedono delle indicazioni per andare sul Monte Fuji. Una volta arrivati, andarono a casa di un'amica di Erika, Sandra. Sai dove si trova la casa dell'eremita del Monte Fuji? È lassù. Posso venire con voi? Certo! E così si arrampicavano sul monte. Bussavano alla porta e apre un vecchietto. Siete voi gli idraulici? No, siamo venuti a salvarti. Arriva l'idraulico. Eccomi, sono arrivato. Ma cosa avete capito? Io ho mandato un messaggio all'idraulico con scritto: vieni al Monte Fuji e salvami, perché mi si è intasato il water e c'è una grandissima puzza. E quindi è finita la vostra storia? Sì! Bravissimi, è molto carina e simpatica. Allora, la tematica era l'amicizia, giusto? Questa è ok, l'amicizia. Qualcuno di voi ci racconta un po' come è nata allora questa storia? Come avete fatto a scriverla? Perché l'avete scritta? Dalla mente di Martina. Cioè, dalla mente un po' di tutti abbiamo deciso di appunto creare questa storia. All'inizio doveva esserci una persona da salvare, ma alla fine, visto che veniva lunghissima, abbiamo deciso di accorciarla, rendendola divertente, un po' comica. Okay. Allora, io ho dato questa idea di fare sul Monte Fuji, che l'ha fatta anche un altro gruppo, e loro hanno detto che andava bene, quindi abbiamo fatto questo tema. Ok, come vi chiamate? Sara, nome è Mira. Sandra e narratrice, nome reale Matilda. Albert e narratore 1, il nome reale è Martino. Carmine e il mio nome reale è Almir. Abdul, il mio nome reale è Ishan e sono l'idraulico. Io mi chiamo Erika e il mio nome reale è Divina. Grazie bimbi, ciao! Ciao! Siamo qui con la quinta G delle scuole Federzoni, quindi una primaria. E sono bimbi però grandi, perché ormai hanno tutti 10 anni e stanno per andare alle scuole medie. Questo laboratorio che stiamo facendo a scuola prevede l'invenzione di alcune storie. La classe quinta G si è divisa in 3 gruppi e ha inventato 3 storie legate a un argomento, che è la memoria. Quindi la memoria presa intesa come parola, non con un significato preciso. La parola memoria può avere più significati e quindi adesso iniziamo ad ascoltare le loro storie e il perché le hanno scritte. Il titolo è Esmeralda. C'era una volta una bambina che aveva 7 anni e si chiamava Esmeralda. Adorava la musica e la danza. Era molto dolce e sensibile, ma nessuno la voleva come amica, per questo era molto triste. Piangeva tutti i giorni perché la umiliavano e prendevano in giro per le sue passioni. L'unica cosa che gli piace era ballare. Quando ballava era come se fosse una piuma spensierata. Una mattina si svegliò ed era mezzo addormentata. Uscì di casa per andare a fare colazione al bar. Lì incontrò una bambina che si chiama Giulia, aveva la stessa età e che aveva le sue stesse passioni. Diventarono amiche e lei non pianse più. Grazie bimbi, è molto bella. Allora presentiamovi, voi siete il primo gruppo della quinta G, giusto? Tu sei? Marina. Susanne. Anastasia. Saber. Adam. Ok, e questa è una storia sulla memoria, giusto? Che cosa volevate raccontare? Perché avete scelto di raccontare questa storia? Noi abbiamo scelto perché la nostra classe in tutti questi anni balla molto ed è un ricordo per le elementari. Ok, grazie. Quindi la memoria della vostra scuola elementare, dei vostri 5 anni insieme. Ok, grazie bimbi. Ciao! Ciao! Allora, siamo ora con la quinta F della scuola primaria Federzoni, quindi sempre istituto comprensivo 5, e continuiamo con il nostro laboratorio. Qui abbiamo creato altre 3 storie, quindi 3 gruppi di bimbi che hanno inventato delle storie a tema fantascienza. Quindi adesso andiamo ad ascoltarle con calma, una per una. Ciao bimbi! Ciao! Il titolo è Parco nello spazio. Tutto cominciò quando Tommaso, Nanà, il cane parlante, ed Elisa vennero chiamati per fare la loro seconda spedizione nello spazio. Quando arrivarono, fecero il test e lo superarono. Così, dopo 2 ore, erano dentro l'astronave. Però c'era un problema, di cui Tommaso e Elisa non erano a conoscenza. I meccanici dell'astronave avevano detto ad Elisa e a Tommaso che prima di partire dovevano ricontrollare l'astronave, ma in realtà erano alieni che li volevano trasportare in un pianeta lontano, Strambilus. Il giorno dopo arrivarono a metà strada e Tommaso urlò: guarda, sotto il tuo sedile c'è un biglietto. Sì, dai, leggiamolo. Cosa c'è scritto? È incredibile, ci hanno fregati. Vi abbiamo fregato, non c'è il carburante nell'astronave. E proprio in quel momento la navicella cominciò ad andare all'impazzata per tutto lo spazio. Oh no! Aiuto! E ora cosa facciamo? Siamo lontani da casa! Quando l'astronave si fermò, atterrarono su un pianeta sconosciuto. C'era un cartello su cui scritto «Benvenuti a Strambilus». E da qui inizia la nostra storia. Quando Elisa, Tommaso e Nanà si guardarono intorno, videro un pianeta che assomigliava ad un Luna Park. Dai, andiamo a giocare! E subito Elisa e Tommaso la fermarono. No, stop! Non conosciamo niente di questo pianeta. Potrebbe non essere sicuro. Ad un certo punto videro un alieno. Subito Elisa e Nanà si misero a correre all'impazzata. Però Tommaso era rimasto imbambolato davanti alle montagne rosse. Così Scar chiamò la truppa e lo presero. Nanà! Dov'è Tommaso? E che ne so io, ci stava seguendo fino a un minuto fa. Guarda sulle giostre, c'è il telegiornale ellenistico. C'è scritto che un umano è stato appena intrappolato. Ed è proprio Tommaso. Dai, su, andiamo a cercarlo. Annuncio giornaliero, il re Scar ha appena intrappolato un umano di circa 11 anni. Cittadini di Strambilus, studieremo questo umano alla perfezione. Poi vedremo cosa farne, disse Scar il capo. A quelle parole Nanà ed Elisa gli si ghiacciò il sangue. Elisa e Nanà cominciarono ad avventurarsi dentro quel pianeta gioioso. Il problema era che non avevano la minima idea di dove trovare Tommaso. Ma come fanno degli alieni così gioiosi a intrappolare un ragazzo così docile? Nanà ed Elisa erano sempre più spaventate, ma anche meravigliate da tutte le giostre degli alieni. Ad un certo punto videro un palazzo grandissimo con tante luci colorate. Wow, forse è lì che hanno nascosto Tommaso. C'è scritto che lì vive il famoso Re Scar. Il cane e la ragazza entrarono e si diressero verso una sala buia. Ad un certo punto sentirono una voce, anzi, molte voci. Abbasso il re Scar. Scappate, in realtà il re Scar è cattivo. Ma come? Tutti parlavano di Scar come un ottimo re. Diceva che non imprigionava mai nessuno. Rispose Elisa contrariata. Intrusi! Sicurezza! Cosa ci fate voi qui? Siamo venuti per liberare nostro fratello Tommaso. Voi siete intrusi, l'abbiamo catturato per studiarlo al meglio. Ma noi dobbiamo tornare sulla Terra. Ok, mi avete scoperto, l'abbiamo intrappolato perché i cittadini vogliono eleggere un nuovo re, anche se non capisco, sono bello, intelligente e gentile. Aiuto, aiuto! Disse Tommaso. Fratello! Dove sei? Sono qua! Non ascoltare il re Scar, sono tutte sciocchezze, in realtà tratti i cittadini come schiavi. Disse Tommaso agitato. Ad un certo punto qualcuno bussò alla porta. Andate ad aprire e intrappolate il cane e la ragazza. Quando arrivarono alla porta si ritrovarono tutti i cittadini di Strambilus. Avevano dei cartelli con scritto: Abbasso il re Scar. Abbasso il re Scar. Abbasso il re Scar. Abbasso il re Scar. Alla vista di quei cartelli Scar si infuriò e disse: voi non siete degni di me. Andrò in un altro pianeta. Detto fatto, il re Scar prese un'astronave e se ne andò. Ci fu un minuto di silenzio, poi cominciarono a festeggiare. Tutti i prigionieri vennero liberati. Poi a fine giornata Nanà, Elisa e Tommaso salutarono e ripartirono. Poi a un certo punto un alieno disse: Ma ora chi sarà il re? E Tommaso dall'oblò disse: potrà essere una democrazia. Bravi, bene. Allora, per fortuna. Bravissimi, ci dite i vostri nomi? Penelope, Niama, Riccardo, Aurora, Alice, Riddle. Ok, qualcuno mi racconta com'è nata questa storia? Allora, questa storia è nata dalla felicità di stare in un gruppo insieme e dalla nostra immaginazione e dalle nostre idee messe insieme. C'è una tematica? Per creare la democrazia, che la democrazia è, che da, è meglio della esatto. monarchia. Ok, è meglio della monarchia secondo voi? Sì, sì. Molto bene, perché la democrazia ci rende un po' più liberi, giusto? Sì, sì. Ok, bene. Grazie bimbi, ciao! Ciao! Ciao. Grazie ai bimbi della quinta E, quinta F e quinta G perché siete stati veramente bravissimi. Le prime storie che abbiamo ascoltato ci sono piaciute molto. Daremo spazio nella prossima puntata, ovviamente, sempre a queste tre classi che racconteranno le altre storie, perché come abbiamo detto per ogni classe ci sono tre gruppi, quindi ci rimangono ancora sei storie da ascoltare. Veramente, veramente interessanti. A questo punto vi lasciamo con la quinta G che fa le prove di Spazio-Tempo, la canzone di Gabbani che stiamo studiando con tutte e tre le quinte e quindi poi eseguiranno insieme alla fine di questo nostro percorso. Allora, la quinta G all'inizio si è impegnata per capire questa canzone, era una canzone che non hanno scelto loro e quindi insomma è stata un po' un compromesso, diciamo, per alcuni dei bimbi perché non piaceva moltissimo e poi invece piano piano le prove hanno fatto crescere il gruppo e si vedranno nella prossima puntata i progressi che hanno fatto tutti i bimbi, quindi bravissimi. Iniziamo da questa piccola chicca e vi lasciamo però con questi bimbi che cantano e provano in classe con i loro compagni e vi salutiamo. Ci risentiamo la settimana prossima alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica.